L'Associazione per le vittime dell'agente Orange, creata agli inizi di gennaio per tutelare i diritti degli eredi di quella piaga, ha presentato denuncia contro una decina di aziende produttrici del micidiale defogliante usato durante la guerra del Vietnam davanti a una corte americana. Si tratta di due donne e un uomo ed è la prima volta che accade. Finora solo i veterani americani della guerra avevano presentato denuncia e ottenuto in qualche modo compensazioni. L'Orange, un diserbante a base di diossina, venne sparso su oltre 3 milioni e mezzo di ettari di terra, distruggendo flora e fauna del Vietnam per un lungo periodo. Ma la diossina penetrava nel suolo, contaminava l'acqua e si annidava nella catena alimentare. Continua dunque a colpire e a farne le spese, adesso è la quarta generazione. Il più recente studio sull'agente Orange si deve a una ricerca diretta da Jan Mager Stelman della Columbia University di New York. Secondo un nuovo tipo di calcolo, la Stelman e il suo gruppo hanno valutato che il numero delle persone che ne subì gli effetti potrebbe essere assai più vasto di quanto si riteneva, compreso in una forbice tra 2 e 4 milioni di individui, 3.000 i contaminati direttamente, senza contare la catena del contagio nel lungo periodo attraverso il DNA. Non solo, secondo i nuovi calcoli, il gruppo ha scoperto che furono 100 i milioni di litri irrorati sul Vietnam, un quarto in più di quanto finora era stato accertato. Emanuele Giordana, Lettera 22, Amisnet.